versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo venerdì alle 16.32, anzi tra qualche secondo 33 primi, siamo in diretta da Milano, vi saluta Oscar Giannino, vi ricorda l'indirizzo solito versione di Oscar @radio24.it per chiedere argomenti di trasmissione, ospiti, critiche eccetera eccetera, e vi ridò il numero di telefono 800240024 per intervenire subito, a cominciare da questa trasmissione, il 349-238-6666 per gli sms, dicendo di che cosa parliamo. Questa è una vicenda che tocca centinaia di migliaia di famiglie italiane e ha a che vedere con il criterio attraverso il quale viene formulato l'indicatore standard di capacità economica del reddito, in base al quale vengono formulate le graduatorie comune per comune per l'accesso ai servizi, quello che in gergo tecnico si chiama l'ISEE, il nuovo ISEE. Sapete che il governo aveva fatto punto d'onore quello di cambiarlo per renderlo più tra virgolette aderente alla realtà del reddito delle famiglie italiane, quindi cambiavano i criteri. Nel frattempo i mesi sono passati e che cosa sta succedendo? Sta succedendo una grande confusione in tutta Italia, perché nel frattempo i comuni stanno chiedendo ai cittadini di produrre il nuovo ISEE, e a questo punto però, visto che ci sono state sentenze discusse perché hanno effetti, le sentenze dei TAR in cui vengono accolte le impugnative sui criteri degli ISEE, ecco che a questo punto c'è un problema che riguarda praticamente tutta Italia, e i comuni per primi hanno lanciato un appello al governo perché venga in qualche maniera risolto al più presto questa confusione che viene generata dalle sentenze del TAR, l'ultima quella del TAR del Lazio che ha rimesso in discussione i criteri di calcolo del nuovo ISEE, in quel caso era riferito alle persone con disabilità. Ecco, il problema è capire da voi, quindi mi auguro che telefoniate per avere l'esperienza diretta di come vi siete trovati voi e di come vi trovate voi con l'ISEE per eventualmente l'accesso dei vostri figli agli asili nido pubblici eccetera eccetera, per tutte le graduatorie. Che esperienza avete avuto del vecchio ISEE, cosa avete capito del nuovo, come stanno le cose nel vostro comune, e se lo trovate poi, cosa che conta di più, corrispondente davvero per l'opinione che avete tra il vostro reddito e quello di altre che magari hanno un ISEE più favorevole e hanno a quel punto più diritti di voi riconosciuti, cioè il vecchio ISEE, e per quello che ci avete capito il nuovo, è davvero uno strumento che fotografa in maniera attendibile la capacità di reddito per ancorarvi le graduatorie e il giudizio pubblico per graduare l'accesso ai servizi e ai diritti? Ecco, questo è il problema generale di cui ci occupiamo oggi, e soprattutto è un problema volto da un'esigenza di servizio, cioè quella di capire come stanno davvero le cose e come possono rapidamente cambiare, cioè se c'è una ragionevole prospettiva per la quale il nuovo ISEE diventa davvero disponibile per poter cominciare dal prossimo anno scolastico, ma anche da subito, su questo ritenere di avere un buon diritto certificato rispetto al proprio reddito disponibile reale. Ecco, per parlarne con noi, naturalmente non abbiamo scelto una parte pubblica, ma abbiamo scelto chi si occupa di questo nel nome di chi si rivolge a lui come intermediario, per così dire. E quindi è con noi Dino Giornetti, che è responsabile del settore ISEE per i CAF della CISL. Buon pomeriggio e grazie. Buonasera, grazie a voi. Allora, innanzitutto fotografia, dal punto vostro di vista, come sta realmente la situazione e quanto il caos, le voci di allarme eccetera hanno fondamento e che cosa ci si può attendere? A parte la conferma di tutta la descrizione dell'attività, quindi si presentano più attività. Oggi abbiamo la prima differenza, è proprio il calcolo dell'indicatore, quindi elementi nuovi che vengono autocertificati al CIT dalla famiglia, quindi dal dichiarante, rispetto a prima. Quindi in una fase iniziale era normale aspettarsi questa criticità, in quanto vengono chiesti dati quali come la giacenza media di difficile riferimento e quindi una difficoltà iniziale delle famiglie. La giacenza media, stiamo parlando di quella sul conto in banca. Parliamo del patrimonio immobiliare, sì. In quanto Essenzialmente il Vice Nuovo aveva una motivazione validissima per portare delle correzioni, in quanto buona parte dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati ad oggi con l'ISE vecchio sembravano non rispondere al vero, quindi lo strumento, che è solo un misuratore, poteva sembrare non equo. Quindi la manovra è tendenzialmente fatta per andare a identificare. Era un classico, mi scusi, ma giusto per ricordarlo a chi è in ascolto, perché già arrivano sms, era un classico di lavoratori dipendenti a basso reddito che si trovavano con un ISEE superiore rispetto a quelli di figli di autonomi che invece a quel punto avevano accesso alla graduatoria e loro no, e così via. Questi erano alcuni dei criteri di iniquità rilevati rispetto al vecchio indicatore. Diciamo che il patrimonio mobiliare, il famoso conto corrente, era praticamente l'uso quasi da tutte le famiglie, quindi uno degli elementi più critici era la non corrispondenza tra il reddito autocertificato e il patrimonio autocertificato e quanto effettivamente era a disponibilità della famiglia. Quindi elemento fondamentale di novità è rendere più rigidi i controlli, quindi fatti ante, vista la numerosità di famiglie che tendenzialmente sarebbero dovute essere sanzionate, verificare i dati già in possesso della pubblica amministrazione. Tra i dati nuovi. Aspetti, se devo avvicinare al microfono perché si sente malissimo. Ah, mi scusi. Ecco. Tra i dati nuovi da inserire, quello che ha portato maggiore criticità proprio per le famiglie nel reperimento è la giacenza media sui conti correnti, in quanto le banche non hanno fornito ad oggi direttamente il valore. Perché questo, tra l'altro, tecnicamente anche qui lo ricordiamo a chi è a casa, la giacenza media, quella mensile, è quella che le banche devono elaborare e corrispondere all'Agenzia delle Entrate dall'inizio dell'anno, è una delle novità dei dati che le banche sono tenute a trasferire all'amministrazione tributaria. Naturalmente le banche a propria volta hanno detto: guardate che innanzitutto per calcolarlo dobbiamo elaborare i nuovi software dedicati e un costo, risorse eccetera, passerà un po' di tempo. Questa è una spiegazione parziale dal punto di vista delle banche del perché la giacenza media ancora non sia proprio per tutti ottenibile. Correttissimo, infatti il problema dovrebbe rappresentarsi questi primi mesi, poi da maggio-giugno le banche inizieranno a gestire il dato così come gli altri e quindi sarà più facilmente reperibile per le famiglie. Oggi i CAF, attraverso gli strumenti messi a disposizione come gli estratti conto o trimestrali o a scalare dello scorso anno riferiti al 2014, effettuano il calcolo per conto delle famiglie. Quindi vanno a calcolare attraverso un algoritmo la giacenza media attraverso questi documenti. Queste sono forse probabilmente l'informazione più difficile che le famiglie devono reperire per poter fare l'ISE. Il numero degli ISE oggi è chiaramente diminuito rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Quali sono state le problematiche? Problematica principale è stato l'elemento tecnico. Grossa differenza rispetto a prima: nell'ISE vecchio noi contestualmente davamo l'attestazione ISE, oggi invece i dati non sono tutti autocertificati, ma vengono autocertificati in parte dalla famiglia, il CAF invia all'INPS, l'INPS interroga le banche dati proprie dell'agenzia e dell'anagrafe tributaria, completa la pratica e consegniamo e torna ai CAF l'attestazione. Questa attestazione viene consegnata poi alla famiglia richiedente. I tempi di elaborazione, che per norma sono previsti in 10 giorni lavorativi, nel primo mese di gennaio, io immagino chiaramente, si sono un po' allungati perché era la prima volta, quindi non è stato visto l'emanazione del decreto attuativo con le istruzioni di fine novembre, i tempi erano molto stretti, quindi non si è fatta una sperimentazione per valutare tutte le criticità e quindi il mese di gennaio ha comportato un ritardo nella consegna dell'attestazione, che poi è stato recuperato su febbraio. Attualmente l'INPS eroga rispetto ai tempi, mediamente siamo sui 12 giorni lavorativi. Che già rispetto ai 10 non è… Assolutamente. E quindi questo è un ulteriore problema. Ulteriore difficoltà è proprio quella che ha anticipato lei, sono gli enti erogatori. L'ISE è un misuratore per accedere a una prestazione. Se i comuni, gli enti erogatori e le regioni non regolamentano le proprie prestazioni attraverso il nuovo indicatore, non essendoci prestazioni accessibili in questa fase di analisi da parte degli enti erogatori, non c'è neanche una domanda per poter quindi chiedere l'ISE. Quindi lo strumento paga anche questa valutazione iniziale da parte degli enti erogatori che devono utilizzare il nuovo strumento. E a questo punto l'iniziativa dell'ANCI di chiedere a Poletti e al sottosegretario Delrio, ci ho qui comunicato dall'ANCI, che dice: chiediamo con urgenza un quadro certo e stabile di regole. Quando dicono un quadro certo e stabile di regole, rispetto a questi particolari che ha dato spiegando come funziona il nuovo ISEE e perché si sono determinati questi ritardi, di che cosa sta parlando l'ANCI? Cioè, che cosa ancora in più l'ANCI chiede che serva per evitare il caos? Io immagino che tracci anche l'attività che aveva definito correttamente lei dal punto di vista della sentenza, soprattutto quella nei confronti dei disabili. Calcoli che oggi mediamente le DSU, quindi le dichiarazioni sostitutive uniche che servono per ottenere l'ISE, sono per il 20% presentate da famiglie con disabilità all'interno del proprio nucleo, quindi una dichiarazione su 5 comporta un criterio di calcolo diverso. Il TAR in sostanza cosa ha detto? Il TAR del Lazio, sì. Il TAR del Lazio, un insieme di associazioni, hanno contestato al governo, quindi al ministero competente, il fatto che non si possa utilizzare come reddito disponibile quel reddito di natura risarcitoria. Quindi questo invece era un pilastro anche del decreto, andavano a essere inseriti nel nuovo ISE tutti i redditi esenti IRPEF o meno, quindi di qualsiasi natura, al fine di calcolo. Secondo il governo le franchigie date per queste disabilità supportavano questi redditi, quindi andavano a eliminare l'incidenza dei nuovi redditi. Secondo il TAR del Lazio la natura di questi redditi non doveva per propria natura rientrare tra un reddito disponibile, e a questo punto il Ministero dovrà comunicare che cosa intende fare di fronte alla sentenza. Assolutamente, certo. Ai tempi tecnici per decidere se ricorrere o non ricorrere, creando un'incertezza. Siccome nel frattempo bisogna intanto elaborarlo e stare guardando un ISEE su 5, come ci dice lei, cioè non esattamente una percentuale trascurabile, nel frattempo che il governo decide se costituirsi o meno, se fare l'impugnativa, andare al Consiglio di Stato, aspettare la sentenza del Consiglio di Stato, passeranno mesi con incertezza assoluta e fortissimo rischio, lo dico per chi ci ascolta e per chi ha questo problema in famiglia, di contestazioni nel caso in cui ci fosse poi l'impugnativa da parte del governo, ma il Consiglio di Stato continuasse a dare ragione alla tesi del TAR, che come avete sentito è opposta rispetto a quella del governo sul fatto di dover comprendere o meno nel reddito di capacità misurato dall'indicatore anche la natura risarcitoria ottenuta ovviamente dall'INPS per la disabilità. Siamo come al solito a fotografare una situazione di problemi amministrativi, per così dire, però ci sono centinaia di migliaia di italiani di mezzo per avere accesso agli asili nido, alle mense scolastiche eccetera eccetera. Non stiamo parlando di italiani che se la passano molto bene, e quindi anche per questo ho deciso oggi di fare una trasmissione per capire bene, per chi di voi è in ascolto, che cosa aspettarsi in concreto. Adesso abbiamo 60 secondi di informazioni stradali, poi abbiamo molte telefonate con osservazioni la cui risposta a quel punto giro direttamente al nostro ospite che appunto si occupa il CAFCIS esattamente di elaborare l'ISEE per coloro che si rivolgono ai CAF. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16.48, stiamo parlando dei problemi del nuovo strumento, indicatore sintetico della capacità di reddito che serve per avere accesso alla graduatoria dei servizi localmente. Abbiamo ricordato quali problemi stanno intoppando il nuovo ISEE in vigore da quest'anno, le richieste che vengono dai comuni di presentarlo già da parte delle famiglie rispetto ai ritardi che ci sono stati all'inizio del regime attuativo, e oltretutto anche per chi ha disabili in famiglia, gli effetti che sono effetti rilevanti della sentenza del TAR del Lazio, con il rischio che questo problema resti aperto. Sentiamo un po' di telefonate e poi abbiamo con noi Dino Giornetti, che è responsabile Storise per il CAF della CISL, e sentiamo come risponde alle vostre osservazioni ed esperienze. Cominciamo con Paolo da Udine, prego Paolo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Paolo, telefono dalla provincia di Udine. Sì. Allora, io sono uno che purtroppo deve far ricorso all'ISE per fare la richiesta di vari servizi, sì, che servono per aiutare un pochino quello che è la situazione familiare. Allora, io purtroppo purtroppo devo riscontrare però che non mi risulta che ci vogliano 12 giorni circa dalla domanda per avere il documento ISE in possesso, perché io ho fatto la domanda e penso di essere stato uno dei primi qua nella mia città verso il 15 di gennaio e a tutt'oggi ancora non ho avuto niente. Io ero passato questa mattina al CAF perché mi avevano detto appunto di ripassare per sentire e già mi hanno detto guarda, ne parliamo per una quindicina di giorni. Comunque desideravo fare una domanda, ma perché non hanno fatto decorrere in modo naturale quelli che erano gli ISE del 2014, che andassero a naturale scadenza, in modo da creare una situazione un po' più elastica per e non con questa crasi immediata. Bene, la prima domanda di Paolo è chiara, sentiamo poi la risposta di Dino Giornetti, mettiamo qualche altra telefonata a seguire con altre osservazioni. Mario da Pordenone, prego Mario. Ciao Oscar e grazie di tutto. E anch'io uguale vivo nella stessa regione dell'ascoltatore di poco fa. E io faccio l'ISE prima per due figli, adesso solo per una, perché nella nostra regione siamo fortunati, abbiamo anche per le scuole paritarie abbiamo un piccolo rimborso anno sulla retta. Quest'anno l'ho fatto, non ho avuto grosse difficoltà, non è forse pertinente con oggi, la banca mi ha dato la giacenza con velocità. Quindi funziona tutto, sì. Sì. Però quello che dico io purtroppo, e ho dei casi davanti proprio che ero quasi tentato di fare una denuncia, che l'ISE non serve, perché chi vuole accedere a graduatorie e avere le sue agevolazioni, pur avendo macchine, case al mare, case in montagna, riesce a fare l'ISE da nulla tenente e prende il massimo del rimborso. Quindi siamo sempre le solite. Quindi dice anche i nuovi criteri, la giacenza, il patrimonio non hanno risolto il problema da cui siamo partiti. Una situazione di una signora ingioiellata, pellicce, macchine, macchinoni, ogni anno nuova, diversa, e tutti gli anni prende un contributo più alto del mio, che sono dipendente io, dipendente mia moglie, famiglia normale. Okay. Con casa con seconda osservazione molto chiara, che mi aspettavo, ma è uno dei problemi fondamentali di questi indicatori. Sentiamo Feliciana da Roma, prego Feliciana. Buongiorno, grazie. Volevo dire che io faccio volontariato, faccio pratica amministrativa per persone anziane e malate. Sì, brava, tra l'altro, e grazie per questa missione che svolgi. Grazie, col cuore, veramente. Ho richiesto un ISE per una nulla tenente, al punto che non aveva neanche la firma alla posta perché non ha mai avuto niente. E allora sono riuscita ad avere il libretto postale, tutto con deleghe e tutto. Ho dovuto chiedere l'ISE perché il municipio devo erogare il mensile alla struttura dove siamo riusciti a farle entrare. Sì. Non si può fare niente, non si può erogare questo mensile perché l'ISE, avendolo chiesto 20 giorni fa, sono andata al padronato, non sanno nulla. Quindi non le hanno dato neanche una data attendibile entro le prossime settimane? Non lo sanno. No, non lo sanno. Allora io questo dico, è ancora più grave. Chi ha bisogno, questa persona si trova in una casa, un RSA, e lei sa che cos'è, certo, questa RSA, certo, e non può fare niente, questa non può neanche pagare perché non ancora il mandato dell'invalidità, che gli hanno accordato l'invalidità, però non ha né l'uno e né l'altro. Si trova in questa struttura che poi io mi sono raccomandato, non fatemi trovare i debiti perché sono no ma Felice, adesso però è chiara la situazione che hai fotografato, è molto preoccupante la risposta del patronato che ti ha detto non siamo in condizione di dirvi quando, perché la signora è bloccata lì e senza di questo non può procedere nemmeno a pagamenti privati. Un'ultima telefonata, sono tantissime ma ne scelgo una sola a caso. Luigi da Pescara, Luigi prego. Sì, pronto, salve Giannino. Io ho invece un problema diverso, nel senso mi trovo cosciente del fatto che non posso sfruttare l'ISE, quindi non ho diritto a nessun tipo di agevolazione, e però l'università dove è iscritta mia figlia me lo chiede comunque, perché sennò non me la iscrive. Benissimo, cioè, benissimo, no, vabbè, è una contraddizione. Io ho la fortuna di non averne bisogno, però davanti sono andato all'università da mia figlia e ho detto guardate, io pago la retta piena perché tanto so che dovrò pagare la retta piena. No, però loro la chiedono, perfetto, vabbè, allora quattro osservazioni di gravità diversa per così dire, sentiamo le risposte ai problemi concreti suscitate, evocate in queste quattro telefonate da Dino Giornetti, prego Dino. Sì. Qualche punto si può chiarire con certezza, perché la norma già prevedeva la soluzione in questo caso. Partirei dall'ultima domanda. In sostanza, io mi chiedono l'ISE, ma io tanto già so di non voler nessun contributo, nessuno sconto sulla prestazione che richiedo. È legittimo o meno? Assolutamente legittimo. Questo ISE vecchio, ISE nuovo è la stessa cosa. Non è obbligatorio per il cittadino fare l'ISE. Può rispondere all'università, non sono obbligato a dartelo. Chi non lo presenta va in tariffa massima. E invece la signora a cui il patronato ha detto no. Sì, andiamo sui punti delle disponibilità. Io ho sentito parlare di date di gennaio e qualche patronato, che poi probabilmente il CAF, che non sa dire la riconsegna. I tempi, le problematiche sui tempi e sulle relative attestazioni si sono rilevate all'inizio, quindi il mese di gennaio. Dovrebbero essere in smaltimento. E man mano stanno smaltendo il pregresso. Le dico che negli ultimi 10 giorni invece sono tornati, quindi le DSU, le dichiarazioni presentate le ultime 2 settimane, hanno questo tempo medio di 12 giorni. Di 12 giorni dall'INPS, quindi speriamo che così sia anche per la povera signora che sta nell'RSA per anziani. Il tempo di me è scaduto, grazie a Dino Giornetti. Domani mattina dalle 10 alle 12, Conti della Belva!